giallo e nero. Tra i misteri della cronaca con Daniele Biacchissi. 30 settembre 1975. L'estate è già un ricordo sfumato nel parco del Circeo, 80 km a sud di Roma. Le belle ville si nascondono tra piante secolari, arbusti e prati. Si raggiungono percorrendo cammini non asfaltati e strade che lambiscono il mare. Andrea Ghira è un rampollo della borghesia romana. La sua camera è tappezzata di bandiere naziste, mezzi busti di Adolf Hitler e Benito Mussolini, libri del filosofo Julius Evola. Ghira porta sempre la pistola in tasca e si dichiara nazionalsocialista. Dietro lui si muovono altri due giovani, Angelo Izzo e Gianni Guido. Per la polizia sono estremisti e delinquenti comuni, più volte condannati per rapine, violenza sessuale, maltrattamenti, sequestri di persona. Al Circeo la famiglia Ghira ha costruito una villa lussuosa su due piani con giardino, box e taverna. Poco lontano dalla costa, con una vista mozzafiato sull'isola di Ponza. Ed è lì che Ghira, Izzo e Guido portano due ragazze provenienti dai quartieri popolari e periferici di Roma. Sono Donatella Colassanti e Rosaria Lopez. I tre le convincono a salire sulla loro potente macchina. Andiamo ad una festa a Lavigno. Ci divertiremo, vedrete, dicono le due ragazze. Ma a Lavigno Donatella e Rosaria non arriveranno mai, perché saranno portate a Villa Moresca, nel Circeo, la villa di Andrea Ghira. Il resto si snoda lungo 36 ore di torture morali, fisiche e sessuali. Ghira, Izzo e Guido uccidono Rosaria Lopez e colpiscono ripetutamente Donatella Colassanti. A quel punto pensano che le due ragazze siano morte. Le avvolgono in sacchi di plastica, le caricano nel bagagliaio della 127 di Guido e fanno ritorno a Roma. Parcheggiano l'auto proprio sotto l'abitazione dello stesso Guido e vanno a mangiare in pizzeria. Ma Donatella Colassanti è ancora viva. Si accorge che l'auto è stata abbandonata. La sua voce richiama l'attenzione di alcune persone che aprono il bagagliaio dell'auto. Donatella è salva. Per Rosaria non c'è nulla da fare. Vengono arrestati in poche ore Gianni Guido e Angelo Izzo. Andrea Ghira riesce invece a fuggire. Il processo si svolge nel luglio del 1976. I giudici non concedono alcuna attenuante ai tre imputati, che vengono condannati in primo grado all'ergastolo per omicidio pluriaggravato. Gennaio 1977. Gianni Guido e Angelo Izzo cercano di evadere dal carcere di Latina. Prendono in ostaggio una guardia carceraria, ma il tentativo fallisce. Al processo d'appello, il 28 ottobre 1980, i familiari di Rosaria Lopez accettano il risarcimento offerto dalla famiglia di Gianni Guido. Il fatto induce la Corte a ridurgli la pena a 30 anni di reclusione. Le storie di Gianni Guido e Angelo Izzo sono costellate da ripetuti tentativi di evasione dalle carceri, a volte riusciti grazie a complicità non sempre accertate in sede penale. Gianni Guido viene subito trasferito nel carcere di San Gimignano. Da quel penitenziario fugge nel 1981. Due anni dopo viene arrestato a Buenos Aires. Sotto falso nome vende automobili. Ricoverato in ospedale in attesa di estradizione, il 15 aprile 1985 Guido riesce a dileguarsi. Sarà nuovamente intercettato nel giugno 1994 a Panama e trasferito definitivamente in Italia, dove sta scontando il residuo di pena. Anche per Angelo Izzo la fuga resta l'unica arma per sottrarsi alla giustizia. Izzo riesce ad evadere dal carcere di Alessandria il 25 agosto 1994, per essere poi rintracciato in Francia il 15 settembre successivo. Angelo Izzo, dunque, si trasforma in uno dei più importanti pentiti della destra eversiva, come spiega davanti ai giudici di Milano che lo ascoltano nell'ambito del processo di primo grado sulla strage di Piazza Fontana. Il motivo principale è che entrò in crisi in qualche maniera l'immagine che avevo di me stesso. Dopo 10 anni, 11 anni di carcerazione, io naturalmente non mi trovavo più in quell'abito in cui mi ero cucito addosso, diciamo un po', diciamo, di cattivo, tra virgolette, ed incontrai un magistrato come il dottor Vigna che seppe cogliere magari dei sintomi di crisi diciamo, il proprio diritto personale che vivevo, poi probabilmente anche la speranza di qualche beneficio, insomma, di ricostruirmi una vita, certamente ha avuto, anche se non c'erano leggi, non c'era niente, insomma, quindi diciamo, poi ha avuto un'influenza, una speranza così, diciamo, anche non razionale, non proprio naturalmente. Ecco, queste più o meno possono, proprio diciamo, essere in pochissimi, anche la crisi politica che cominciava a non credere più in quel tipo di ideologie in cui avevo creduto, diciamo, oggi ne sono assolutamente lontano, insomma. Poi c'è Andrea Ghira, il capo della banda del Cece. Lui si dilegua poco dopo aver assassinato Rosaria Lopez e ferito gravemente Donatella Colasanti. Angelo Izzo, diventato ormai un pentito, lo accusa di aver ucciso la giovane Giorgiana Masi durante gli scontri di piazza avvenuti a Roma, 12 maggio del 1977. Ghira avrebbe utilizzato le armi in dotazione al gruppo Drago, una struttura di uomini scelti all'interno di Avanguardia Nazionale. L'allora parlamentare Mauro Mellini racconta così a Radio Radicale il pomeriggio in cui qualcuno sparò a Giorgiana Masi a Roma, proprio sul ponte Garibaldi. Perché è una cosa molto grave, dalla parte sul fondo di Piazza Navona c'è una squadra di poliziotti, perché non possono essere altro che poliziotti, perché stanno anche insieme ai poliziotti in divisa, che sono armati, abbiamo visto, in borghese, difficilmente riconoscibili, perché non hanno nemmeno il solito abbigliamento dei poliziotti, ma con chiaro il solito modo di travestirsi un po' mezzi per passare per manifestanti, armati di pistola. Questo è un fatto molto grave, perché ovviamente in queste condizioni possono succedere le cose più incredibili che per questo genere. Ecco, avete sentito lo sparo. Lo sparo che ha ucciso Giorgiana Masi. Ma quel giorno Ghira non è ancora un ricercato. Solo nell'ottobre 1977 la magistratura spicca contro di lui un mandato di cattura per il delitto del cerceo. Lo inchiodano le dichiarazioni di Donatella Colasanti, che si ricorda di quel ragazzo che si fa chiamare Gian, responsabile materiale della morte della povera Rosaria Lopez. Andrea Ghira dunque resta a Roma almeno fino al 1978. Vive da clandestino e cambia casa di giorno in giorno, e alla fine si dilega. Il giallo nero oggi è in grado di ricostruire l'intera sua via di fuga. Nel 1978 Andrea Ghira raggiunge l'Argentina grazie a documenti falsi forniti dalla rete di solidarietà dell'Internazionale Nera, la stessa che in passato ha guidato la fuga di Stefano Delle Chiaie, Guido Giannettini, Carlo Di Giglio e di altri esponenti della destra eversiva. Ma a Buenos Aires, negli anni Ottanta, non si sente più sicuro. Sente cioè il fiato sul collo degli investigatori e fugge a Londra, dove nel frattempo si è insediata una comunità di camerati. Massimo Mossello, Roberto Fiore, Vittorio Spadavecchia, Antonio Dinzillo. L'identità di Andrea Ghira cambia di anno in anno, diventa Mirko Elisa, poi si trasforma in Sergio Balzanelli. E da Londra si sposta a Johannesburg, in Sudafrica, e alla fine in Kenya, dove oggi risiede. E allora, perché lo Stato italiano si è dimenticato di Andrea Ghira? Chi ha protetto per 26 anni la sua latitanza? Sono domande che oggi non hanno trovato alcuna risposta.